tiene mille, che fa anche da accoggiatore, e poi l'altro è il modello 230, sempre della ZG, e quello fa anche HF. Poi l'altro è piccolino, una cosa da 20 euro praticamente, quello per la macchina, ma devo dire che funziona benino lo stesso, dai, facendo il rapporto con quello professionale e considerando tutti gli altri, diciamo che segnano lo stesso valore, la stessa cosa, non c'è differenza, e dunque va bene così, ma comunque, va bene, avanti Marco. Sì, si potesse rottarare questi ZG, vabbè, un conto, io non l'ho mai provato perché cioè non c'è niente dentro, è biondo, come un giocattolo, quelli della Peg Perego lì per bambini, sembra un cubo di costruzione Lego, amico, quelli là, va bene, porca miseria che è caldo, più parlo più mi accaldo. Beh, mi ha un attimo che è arrivata mia figlia, riprendi Giulio, già torno subito. Ok, sì, anche il TM1000 comunque si illumina, quello è doppio quadro, Marco, c'è il wattmetro e il rosmetro, sì, quello lì è doppio quadro, grande, ma saranno ogni quadro di Smith saranno all'incirca 8 cm più o meno, 8 per 6, 5, 6, qualcosa del genere, anche quello si illumina, no? Vabbè, comunque, sono strumenti che usi una volta ogni volta di pappano, soprattutto con l'antenna che ho io, no? Non c'è bisogno di strumento, intanto anche se ce l'hai qualcosa non puoi accordare niente, perché l'antenna è così e basta, capito Marco? Yes. Va bene, beh, se non li prendono gli altri, io magari Natalino però ci stia studiando, che ne so, sa che mi prendo qualcosa di fresco perché cioè, sono in pantaloncini per non dire mutande e ho caldo, non so come stare, ma le testate guarda, prima non era così, è una cosa diciamo sopraggiunta dopo, no? Non so, oggi è una giornataccia calda come tutte le altre praticamente, e domani sarà uguale, stavo guardando il meteo, domani dovrebbe salire addirittura a 37, la punta massima a 37 gradi, va bene dai, sempre l'apparecchio con LED stai usando o Marco o analogico ce l'hai, com'è in questo momento? Sto usando il President piccoletto, quello omologato tipo macchina, comodo in macchina, e la lancetta è... la lancetta è la Smith, lo Smith è la lancetta. No, pensavo che avessi in questo momento quello a legge, lo stesso. No, perché ti volevo chiedere com'era adesso il mio segnale, tutto lì, ma comunque non fa niente, dai, se non puoi non fa niente Marco, già va bene, già mi stai rispondendo, vuol dire mi senti. No, già guardato, 9 più 5, giusto, 9 più 5. Ok, va bene, dai, se invece così, allora sono meno di 9, meno di 8 anche, meno di 8 così, confermi? Vai. 8, qua segna 8, giusto. Ok, va bene, alla grande. Vediamo se è rientrato con Claudio se è rientrato? No. E oggi è una giornata calda come tutti stavo dicendo Marco. Io mi sono svegliato poco fa. Ho fatto un riposino così mi sono messo, stavo leggendo qualcosa. Avevo acceso la baracchina, però l'avevo silenziato, l'avevo. E stavo ascoltando e mi sono invece addormentato. Mi sono svegliato 10 minuti fa, ti puoi immaginare, comunque più di un'ora ho dormito. Io di notte qua sto aprendo tutte le finestre dalla parte interna e tutte o quasi dalla parte esterna in modo da fare circolare aria, però magari fa fresco fuori, però non passa un filo d'aria, cioè l'aria non è mossa, è così purtroppo l'estate. mi sta costando, poi con mamma un po' così, insomma, non è che posso andarmene al mare, no, a fare... non è consigliabile, almeno io penso che sia così, quando una persona ha una certa età non è consigliabile andare al mare, mettersi sotto il sole così, per carità, soffrirebbe, perché non fa male assolutamente, è anche rischioso tra l'altro, soprattutto se una persona ha qualche problema, è meglio stare a casa, si sta meglio al fresco e va bene così. Il mare lasciamolo ai più giovani, a quelli che hanno ancora tanta forza nell'animo e soprattutto nella mente. Vai Marco. Sì, infatti no, non per mamma, per me dico, provare ad andare al mare, però sai, devi stare sempre la mattinata, lasciarla sola, insomma, meglio di no. Ma io sento qualcuno bene, se no tanchiamo tutto e ce ne andiamo in zona più fresca che qua batte il sole. Ok, Marco, se non è voglia non c'è problema, chiudi e basta, no? non è un problema, figurati. Vuol dire avremo modo di risentirci in un altro momento, magari quando c'è più fresco soprattutto, perché sinceramente non è che fa molto stare davanti al baracchino così. Oh, io problemi non ne ho, perché qua si sta abbastanza bene, per cui per me non ci sarebbero problemi per quanto riguarda la temperatura eccetera, va bene così. Va bene. Vabbè, allora lascio bianco, poi se vogliono riprendere, dai, un pochino. Ok, vabbè, dai. Allora io faccio merenda, così nel frattempo. Vabbè, dai, Marco, ci sentiamo allora, un altro momento. Ciao Marco. Ciao Claudio, se mi stai ascoltando, salutoni. Io vado a fare merenda. Ciao, ciao. Chiudo al momento, vai. Via, buona merenda. Ci sentiamo quando capita, dai. Chi era l'altro sotto? Sì, addirittura sotto. No, niente, sto... Potremmo vedere, io sono in pausa di un po'. Qua c'è un caldo pizza, ma veramente... In pausa YouPorn, con questo caldo è pericoloso, mi. Sì, in effetti il PC sta un attimino sbroccando, quindi mi sa che la smetto di smanettare. No, addirittura. Ascolta, che antenna stai usando? Un'antenna di fortuna? Dove, come sei riuscito a fissarla? Fuori dalla finestra? No, un'antenna di fortuna non esiste. Esiste un'antenna calcolata nel simulatore. È un'antenna strana. Questa è una gran pin invertita. No, ma sei riuscito a metterla all'esterno o all'interno dell'abitazione? No, rigorosamente all'esterno. Poi stasera magari eventualmente visto la simulazione la butto pure all'esterno, mi dovrà poco. Quello che c'era interno c'era interno. Magari guadagno mezzo decibel. È un'antenna strana, l'ho simulata in questi giorni, l'ho provato. Via, ha detto Grand Play invertita, ma cos'è un'antenna V invertita per caso? No, una Grand Play invertita, è presente il Grand Play, quello è proprio, c'è un quarto d'onda al radiatore e tre radiali, anche loro un quarto d'onda. Tu immaginati una cosa del genere sotto sopra, a testa in giù. Sì, a Cabin Giosso, sì. Qua tantissimi anni fa avevamo fatto una cosa del genere da un amico che abitava un po' in zona di campagna. E non avendo punti di appoggio avevamo messo una base magnetica, una frusta nera da 90 cm con base magnetica appesa alla, come si chiama? La grondaia, così si chiama, quella al bordo miseria, sì, a testa in giù praticamente, risuonava uno e uno, sapeva. Non so poi il logo di radiazione cosa ne uscisse, però funzionava. Sì, confermo, infatti quello che sto simulando io, questo lato è difficile, tante varie, adesso uno niente, è affondato, vivo, non c'è bisogno di affondatore, se ci passa uno. È una trampoline a testa giù, però mi dovrebbe cosa succede, cioè ma funziona veramente? Mi sembra di sì. Teoricamente lo sapremo. Che programma hai usato per simulare? Come si chiama quello? Managall, due M iniziali A. Sì, sì, confermo, quello lì, è quello lì. Insomma, è una variante open di NEC. Sì, sì, quello lì. Ma la pronuncia in inglese è corretta, com'è? Managall, M Managall, boh. Ma che te frega, guarda, è un acronimo. Sono quattro lettere che sono una cosa, anche per il tipo giapponese, non asiatico. No, vabbè. Ma ti fa vedere tutto in 3D, anche l'obo di radiazione, quella roba lì, sì. Sì, sì. In 3D, sì, nel near field, ma anche in campo lontano. Bello è che, strano che, cioè, strano, purtroppo io non ci ho messo le misure strane, abbastanza vive, insomma, adesso le sto studiando, e risuona fuori dalle misure standard, e forse aiuta anche a provare risultati, infatti sono stato così all'attacco, questo coso qua è funzionato, però in teoria non dovrebbe funzionare, in pratica invece Simulacra dice che potrebbe funzionare più tardi, e quando si apre, se si apre la propagazione dopo con il CDR invece di qualche anno lo alza. Infatti qua, vabbè, io l'ho quasi inserito, ma non vedo segnali che si muovono. Oggi è abbastanza calma, sono già le 6:30, boh, se non si è aperto adesso. Prima si è entrato Claudio, Natalino, Pomponio, Giulio. Pomponio c'era. Stavamo parlando di microfoni, tutti con bip, con bop, con melodie. Io facendo delle pigliette, è stato tutto. Mi è piaciuto, ma intanto non mi ascolta. Sì, Pomponio sparisce di botto, senza partire anche. Vabbè, anche lui c'ha da fare in casa. Antonè, ci sei all'ascolto. Pomponio, si chiude, si chiude ex. Macaroni, macaroni, macaroni. Ma non portarci su. No, viene macaroni, no, vino. Quello vede il biscuano. Vabbè, Natali. Oi, oi. Come c'era i domiciliari, per carità. Io stavo spostando il tavolo qua, perché sto aspettando gente e quindi stavo facendo una modifica qua. Devi fare spazio. E deve venire lei, non la moglie, sono a cena qua stanotte. Ma invitati ce ne abbiamo, tipo Marco, tipo io, no? Se venite voi me ne devo uscire io. Marco. Fate la tavolata in strada, chiudete la via, mettete delle transenne, tavolata lungo tutto il piccolo, come si chiama lì? Che carriera, tipo Zingari. Ma tipo Zingari, a gente era barbecue chi fosse in carriera, vi lo do io. Come buon carrucchio in carriera, non ci credi tu, vedrai cosa faccio io. Festa privata con cartello, mettete anche, come si chiama, il bodyguard, butta fuori che fa entrare solo le persone desiderate. E allora, quelle indesiderate, un calcio in culo e via. no, no, aspetta, dipende, dice no, dipende da quanto pagano però. Eppure cosa ti credi? La di buche morosimino come ci si tocca di pizzetta. Femmo lo va per tu nel piccolo, femmo un gribatto di chi si va tardi, che ne so, li facciamo morire. Ai, questa vendetta mi annuncia. Marco, dimmi lo calmo, questo qua è pericoloso. Sì, sì, poi non mi ricadrei pure la vacca, ci appariciamo in chi e mangiamo gemino e tutte cose. Si immagini farlo apposta come zingarazza, se non fosse che poi chiamano i vigili urbani e quelli poi bisogna dargli ragione come matti. Allora dico si pone i paporini, no? E quando si vede lo zimino si bosano i buruelli. Se trovi uno di greffa sì, se trovi invece quelli terriosi cominciano, allora occupazione solo pubblico, come dire, quando fai quel fumosità moleste, ma qualcosa si inventano poi. Le fumosità moleste mi mancava. Questa non l'avevo ancora sentita, grigio, non l'avevo sentita delle fumosità moleste. Non mi viene, non mi viene il tempo, perché sicuramente c'è qualcosa, no? Quando uno se dovesse fare fumi e fuoco e arrosto in strada, no? Mi è venuto così, di fumosità moleste. A Tarubiago di Rosimino, cazzo, ne puoi vedere gente cazzo ribendi. E lì va a finire, lui si scherzano, lì va a finire tipo Piazza Colonna Mariana, amico, quando danno da mangiare lo zimino gratis, che ci vanno, tutta Sassari si va a mangiare a sbaffoli, capito? Mica bei tempi, ma esiste ancora, mi ricordo una cena la zimenata, la rosticca delle melanzane, che troiaio assurdo. Un amico mio di Sosso mi ha imparato a fare i mirinzani arrosto a caramella. Si mangi quella roba come la faccio io, ti ne ringi pure i mucchiazzi, caro Igreggio. Quando abbiamo fatto il pranzo di congedo, che ci siamo congedati tutti dal comune, abbiamo fatto un pranzo pauroso. Che mi sa che probabilmente bisogna collaudare con l'apertura 5.000 litri e lo collaudiamo una paghetta da me e lì funge un collaudo che è prima di Ferrarossa e lì so cazzo da casa, lì ci paga qualcuno in coma e invitiamo a Marco pure a ci vieni Marco, facciamo una zeminata in campagna di Adriano. Io posso venire ad assistere, perché tanto a mangiare mangio poco, mi sazio subito. Ma cosa ti sazi subito? Come ti mangi chissà roba? Ti sandri sanduro la bibirica a sinistra, cosa ti dice? Marco, guarda che anche io sono così, a me piace cucinare e mangiare pochi. Ma è quello che ti fai 4 disastri. E te ne sei un attimino dopo 2 anni di arresti domiciliari che ci hanno fatto fare. Un attimino di libertà. Sì, sì, ma dopo 2 anni di Covid. Come diceva quella signora, il Covid, qua non ce n'è il Covid. E poi tutto questo casino, ma lo sai che ho sentito dire da un'attività commerciale che probabilmente adesso, io non ho capito se, io lo dicevo per scherzo, ma non tanto, di questa crisi pilotata, no, della la benzina alle stelle e l'olio di semi 3 euro, l'olio di semi pari a 3 euro, roba folle, come l'oro. E di questi rincari della luce abnormi, sta dicendo che forse tra siccità e emergenza idrica forse limiteranno anche i consumi della corrente elettrica per alcune attività commerciali, tipo limitando per servire i condizionatori, questa cosa di Putin, metano, non so, tutto stanno inventando di tutto per fare crisi pilotate, perché a me sembrano pilotate. Ah, mi ha perso un'opinione, questo non ha preso il blu 80, è un troiaio che è scappato di mano a personaggi come ci dice, ma come va bene, un troiaio scappato di mano, è partito il virus a cazzo, gli è partita la mano gli Stati Uniti a cazzo, mo ha sbroccato la Russia a cazzo e mo ha sbroccato di conseguenza anche l'Unione Europea e l'Uno a cazzo, così da capire, no, quindi se questa guerra mondiale alla grande, cosa dobbiamo fare? Noi ci andiamo a seminare boccione di Dio che ho porta e problemi bisogna adiafaghi. Sì, ma un po' pilotate sono, perché sì, magari c'è una crisi, che ne so, c'è un'epidemia, però la ingrandiscono per i soliti noti, per farci i ricchi ancora più ricchi. C'è la crisi del coso, del metano, e gli speculatori speculeranno ancora di più. Cosa c'è in arrivo? Il vaiolo delle scimmie, le locuste di Sardegna, Egitta. La siccità, vabbè, quella è abbastanza reale, e qua praticamente c'è sempre sole, però piove poco, e tante altre cose, vabbè, comunque, la luce è raddoppiata quasi, i consumi praticamente quasi uguali, e il costo quasi raddoppiato, tutto raddoppiato, tutto caro, e anche per questa cosa del 110%, ho sentito i materiali di si raddoppiati come costi, sono triplicati, è tutto perché i soliti che producono ci vogliono fare ancora più d'oro, capito? Non ci credo ci sia penuria ai materiali, non vi credo, non tutti i materiali almeno. Ma a me, nel quotidiano almeno, mi troppo le palle abbastanza il fatto che siamo arrivati al punto che vado in normalissimo supermarket e c'è l'olio di seme che costa più dell'olio d'oliva, ha senso? Mi troppo le palle il fatto che vado a mettere benzina, prima non mettevo pentiro, si vedeva che quanti litri ne mettevo, ma non ci mettono un cazzo, sembra che te ne stanno regalando. Io lo uso poco, un po', i mezzi li uso poco, però per chi deve lavorare e viaggiare tutti i giorni, questa cosa della benzina ha inciso parecchio, parecchio, parecchio. Oggi l'ho comprato l'olio di semi perché l'avevo finito. Prima pagavo da MD 1,19, 1,29, massimo 1,39, hanno proprio 6. 2,99, quindi 3 euro. Oh, c'ha il colore dell'oro e costa come l'oro. Adesso i 200 euro, mamma vabbè, pensionata si becca 200 euro in più, ma una tanto me, cioè, come comprare carta igienica, mi dice, no, non lo dico. Aspetta, ho fatto bianco, vedete se c'era qualcuno sotto, tutto caldo. No, niente, sono andato a scartabellare frigorifero. Nel pomeriggio sono andato in campagnetta e mi sono raccolto un pochino di albicocche, li ho buttati in frigo a scoperto il canone e sono arrivati alla temperatura giusta e me li sbattono lo stomaco. Claudio è più rientrato. Claudio, ci sei all'ascolto? Da Pomponio? Giulio? Chissà com'è il cavo minata lì. Il cavo, lo sai che dopo vari anni, anche pochi anni, fa le bolle dal calore, proprio cotto dal sole, è come la pelle del maiale, amico, quando lo fai arrosto, fa le bolle. Da Natalino è dal farato, il cavo coassiale, poi è nero, diventa bello, bello caldo. Aspetta, mi sono perso qualcosa, state arrostendo il cavo coassiale? No, no, si sta arrostendo al sole, che ho detto, dopo pochi anni, vedi gli effetti del calore, fa proprio le bolle, tipo la pelle del maiale arrosto. No, invece è molto più semplice il problema, si chiama migrazione. Dopo un tot di anni sotto i radio zuccheristi, anche la migrazione, come colazione perlomeno, la migrazione delle bici attraverso il divino, il tempo, a un certo punto, è per quello che diventa nero il locale, diciamo che è già un miracolo se 10 anni resiste e soprattutto se non ci sono tentazioni da sopra. Sì. Invece tanti anni fa, quando era nell'84, avevo trovato la Regi 58 bianco, quello nautico, sembrava un cavo TV quello, era abbastanza, come dire, passava più inosservato, dai, e scaldava meno al sole anche. Poi quello bianco, sì, è quello, è il 50 ohm, per basse potenze. 58, però è bello per qualche potente, cioè già il 58 si dice tutti per i 200 watt si chiede, hai mai provato a buttare un paio di centinaia di watt? Diventa tipo una molla. No, io sapevo che era normale Regi 58, però con la guaina bianca per la barca. No, io poi massimo avrò provato 80 watt negli anni 80, col BV131 prestato, mi pare. Oppure comprato e subito dopo rivenduto, perché era una stufa, era, per carità. Poi dovevi aspettare che scaldasse, ero che rotto le balle qua. Sì, mi insegna che anche il barbecue bisogna lasciarlo scaldare, avendo la temperatura giusta poi passano fuori, e spero che quindi delle PL, delle L509, 519, Natalino, io hai apparecchiato? Cosa vuoi? Stiamo arrivando dal Marcolino, che facciamo, suoniamo o citofoniamo? E fate come volete. Cazzo, se venite voi, io vi avrei anche invitato, ma se venite voi me ne devo andare io, mia moglie. E io vengo anch'io, dai. E i rini di tutti, dai. Chi è l'altro? Il profeta? Ciao Marco, buonasera Natalino, non so chi c'è in ruota. Ciao Brofei, buonasera, c'è anche Adriano qua. Guarda se lo senti. Ma lei chiama da Marco? Buonasera, no vabbè, a me non mi sento. È impossibile che mi ascolti. A voglia. Ciao Adriano, buonasera, Gianni da questa parte. Il segnale già è forte, adesso non so dove ti trovi, almeno in che coordinate. Sera, Sassari. Sì, anche tu mi stai un attimo spappolando le guide. Mi sa che sei sotto casa però. Vabbè, sera è troppo generico, va, io sono zona stazione ferroviaria. Ah no, vabbè, sì, Sassari centro però. Centro storico, Ponte Rosello. Ok. Bene, quindi dai, sei molto vicino a Natalino. Sì, diciamo 150 metri dei radari. Sì, siete belli vicini. Sì, Natalino, io chiudiamo il vicolo e facciamo una bella tavolata lì, abusiva, capito? Mettiamo anche la transenna, il buttafuori che seleziona gli invitati. Mettiamo un po' di ombreggiante così almeno la gente non si mette a curiosare. Sì, vabbè, assumiamo anche qualche buttafuori, troppo. Se si comporta male qualcuno alla tavolata va buttato fuori, va iettato. Io sto già vedendo qualcuno che sta accendendo il fuoco. Grigio lì è... Guardi, se vede il fumo vuol dire che sono io. Ma sei arrossendo, buonasera. Ciao Tino, mi sa che con Ghiaccio Gaglio stiamo arrossendo tutti. Buonasera a tutti, ciao. Lo copi Adriano da Sassari Centro? Adriano chi, avanti. Buonasera, no, sicuramente non mi copia. Causa né al feed, sto modulando sulla sua. Il fumo, occhio che... probabilmente ci prendo. Minchia che caldo, riprendi Tino, mi sembra aver capito, riprendi tu. Sì, ciao via, ti ascolto basso basso, è mezzo FRM, quindi perdonami se non capisco tutto ciò che dici. L'ho sentita non appena, però non è molto sentiva la radio che sto utilizzando. Ok, sì, va bene, io me la con mi ascolti, no problema, non è un problema tuo, è un problema mio. Riprendi Marco, fai girare un attimo, vado a farmi una bella gustosa pisciata. Ok, sì, a cambiare l'acqua alle olive si dice. Ehi, ciao di nuovo. No, vabbè, stavamo scherzando dicendo a Natalino a chiudere il micro, mettere transenne e fare tavolata di Piazza Colonna Mariana. A rustine nel piccolo, te lo immagini. Così comincia a arrivare gente da tutte le vie limitrofe. Allora, vabbè, già è periodo adesso, è troppo caldo. Io infatti, vabbè, devo farlo ma più tardi, vediamo un pochino cosa organizzare. Adesso non posso solo iniziare a portare un po' di legna, perché io cucino rigorosamente con legna d'olivo. Quando proprio sono fuori per divertimento, allora utilizzo la carbonella, però in casa utilizzo questa roba qua. Vediamo, più tardi, quando cala il sole e le temperature insomma diventano più gradevoli. Ehi, c'è il profeta Natalino, Adriano, c'era anche Claudio in Curix, andava e tornava, doveva scaricare roba in pare, era andato a bere, Pomponio che entra esce, eccetera. Ma non li prende nessuno, cioè sono tutti sudati. Ciao Tino, buonasera. Bellissimo, profeta. Ciao. Ben entrato anche a lei. Oh yeah. Ho già consumato tre flacconcini di attac, che cazzo. Di attac? Per quale motivo? Perché continuano a rompersi le palle e bisogna sempre incollarle. Metti il Patex, quel Patex che puoi incollare i pianoforti al soffitto, non scendono. Ma si era un po' tutto, si era bisogno di luci. Con 1000 chiusi, così almeno sembra l'effetto vero. Bravo quello, i 1000 chiodi come si chiama. Comunque già, insomma, questa antenna che abbiamo fatto il battesimo dell'aria, il battesimo del fuoco da Lugaglio Grifei, il battesimo dell'acqua per le due gocce hanno fatto, manca solo il battesimo del fulmine. No, raga, perché sì, cioè, che dopo tutto quello che sta succedendo è già anche troppo. No, manco male, dai. Anche oggi è caldassa, domani si ripete, poi dai, ne la voglio smontare, dai, però da una 10 voglia a meno 2, cazzo. Fai con calma, ieri non ci stava male come temperatura, io ero ai minimi termini, ero veramente distrutto, notte insonne, quindi vabbè, non ci voglio pensare. Vabbè, ieri perlomeno dove io stava bene, io ero fronte mare, argentiera, stavamo facendo una condotta e quindi mi arrivava il vento dal mare, era gradevole la cosa, dai. Sì, io manco in cartolina l'ho visto quest'anno, finché mamma non si riprende, quando diventa un po' autonoma di nuovo, vediamo. Io Natali esce a Piggiu e così io vado a mangiare il mio gelato e poi devo fare un'ultima commissione prima di ritirarmi del tutto stasera. Senti il profumo delle sardine da qua a me, Natali. Oia. Voglio fare la gingarata, che poi lo sai, no? Come ho detto prima, i vigili urbani arrivano, occupazione solo pubblico. Tutto quello che riescono, comunque l'ho brevettata io quel termine, l'ho brevettato io, fumosità moleste, non me lo toccate, mi dovete pagare il copyright. Scusa un attimo, vabbè, io non so se dove abita Natalina, dove è, piano terra, primo piano, vabbè. Un attimo, Natalina, ho messo la moto in traverso, ho chiuso il vicolo. e quelli magari lo fanno davvero mi. Salino è cos'è il primo risulta boh. Come comprate le sardine già le cucino io qua, oppure le cucina a Tino, non abbiamo problemi noi, basta che portate le sardine. Ciao qua. Ciao ti, buonasera. Ma guarda, a me piacciono le sardine, però molta gente quando le cucini sai, dice che puzza di sardine, però si deve la mangiare. Puzza, profumo vorrei dire, e vabbè certi sono così, dicono che puzza, poi se le mangiano e come. Lo sai, no, quando abiti in città, se uno si permette a fare due sardine, non è più il termine puzza, cioè non è più il termine profumo, ma il termine puzza, capito? Sai, entra in casa e quindi che favorevole che no, però penso che in città sono quelli più o meno favorevoli. Fammi avere quella voluta, oia, mandale qua a vedere se toccano terra. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Raffè, non mi ero accorto, c'era anche tu, ciao, buonasera. Cosa stai usando ti? HR 5005. Ah, mi ha mandato la radio diversa. Sono accorto, non stavo usando il K, vabbè anch'io sto andando con la Saturn, però la modulazione non è che cambi molto, più o meno sempre quella. Già me sono accorto anch'io, infatti però l'ho cambiato, non so se vuole accorto la prima, scusate. Dovrebbe andare bene. Sì, no, vabbè, te ne sei accorto, c'ho il bip, quindi chiaro, non sto usando il capo, ma come radio già funziona molto bene, col termine più 3, sì, 9 più 20, Tino. Marco, quanti watt stai usando? 3 watt, 2 watt, cazzo, 9 e 5, sì, Bruno, ne avevi sempre 9 e 20. Questa sono 3 watt e mezzo, meno di 4 modulati, oppure da 3 e mezzo modulati, non me lo ricordo. Questo è piccolino, è presidente. Allora, fino a qua sta arrivando 9.25, conta 9.30 qui al fondo scala, lui è 9.25, è incredibile. Ce l'hai davanti, ya lo vedo, ma arriva 9.20 qua, quindi immaginati, ultimo segnalone. Questo è uno smitter simile a quello del 3009, simile, solo che non ha la scala dell'SVR, però come scala dei Santiago è uguale. 9.25, ottimo, sembra quasi in zona. Sì, no, ma Marco, io sono, a me piace questo, il 5005 lo conosce meglio di me, cioè anche tu se non sbaglio, ho chiamato diversamente, dai, non mi ricordo cosa avevo, però è un similare. Poi Claudio, conta una cosa, che è uno smitter, un coso ZG attaccato, magari mi ruba segnale, adesso lo levo, metto l'antenna al baracchino, tolgo di mezzo il, chiamiamolo strumento, dai. Sì, vabbè, già tipo togliere, non so, a me mi ascolti bene, anche di radio. Sì, però voglio fare una verifica da te, perché tu a portante fissa sei quasi 9-10, però quando parli vai in negativo, aspetta che attacco l'altro. No, è positivo, tranquillo, insomma, l'avevo già detto. Io c'ho lo strumento, guarda. No, già è positivo. Attacca l'altro, attacca, è già positivo, KK, vai al Braffè. Sì, no, è una prova che ho voluto fare perché qua lo vedo, è un po' positivo questo, diciamo, infatti andare. E magari il segnale è anche più alto, merda, nel K. Sì. Tolto lo, il rosmetro ZG. Minchia, ho già la colla che c'è un rosmetro. Da 9.5 si è passato a 9.10. Sul serio? Cioè, mi mangiava un Santiago, quella porcata di ZG. Aspetta, dov'è il cassonetto? Non si butta questo nel generico? Sono allucinante, guarda, il Galaxy è molto, molto secco dando i segnali. Hai già visto, da 9.5 a 9.10. Sembra che abbia attaccato un amplificatore da 50 watt. Non buttare nulla, che sono i connettori e i commutatori. Minimo di mettervi proprio una la regolazione della radio va bene così, Tino, no? Ma non farò abbassare perché c'è che era troppo alta. Ho ascoltato anche con l'altro, già va bene, lascia così, lascia. E infatti non sto lì a toccare, ce l'ho a 2 in realtà, ne più 3. È più che sufficiente. Vai Gianni Buffetta. Eccomi qua. Noia. Eccomi qua, non ho voglia, sono poco qua, c'è appiccica appiccica, isciugaggio, tricca tracca ballacche. Stavo parlando a Adriano, l'avete sovrambulato. Mi è scappato una scudice, no, stavo commentando quella cosa del segnale perso, cosa, ma è una cosa normale, e loro mentre lo usi e poi lo stacchi. Perché la pensa, c'è, già pensa che ti bruci circa 2 dici penso logo con i connettori PL. Con i connettori fusaro sì. Allora, Claudio, guarda, questo dopo secoli che io usavo sempre lo spezzone e il filtro anti-TVI, questa è la vera antenna diretta. Il 213 innestato direttamente al baracchino, sì, antenna diretta. Guarda un po'. Ciucucciù. Perfetto, con tutto diciamo a maglia arrivi 9 più 5. Con antenna diretta arrivi 9 più 10 secco, proprio 9 più 10. Senza niente, picco, niente, secco, segnale fisso. Cazzo, non lo sento Adriano adesso, mi ha aumentato il QRM, prima lo sentivo S2, S3, adesso non arriva più qua, tipo quello, porca paletta. Anch'io lo sento basso, ma col capo lo sento un pochino di più, ma adesso sto utilizzando questa radio e il livello QRM. Questa è meno sentiva, anche per far funzionare un po' questo scatolo nero. Eia, va bene, comunque anche col filtro, Claudio, grosso modo era simile segnale, dai. E il wattmetro che è ZG, e vabbè, ZG è sempre roba ambigua. Solo che il cavo è grosso, fa trazione, a me mi ha rovinato un 3009, mi ha rovinato dove c'è il PL femmina. Quel circuitino di Grecoli, l'anti-TVI, quello incorporato di serie, ha fatto trazione, era tutto dissaldato dentro perché è attaccato proprio all'uscita del baracchino, alla PL femmina. E da allora non ho più usato il 213 diretto, troppo poco elastico, come muovo questo coso mobile, questo portatelefono, mi si sposta il baracchino, è troppo grosso il cavo, dai, non... c'è un bel QRM, sto andando su col capo, però troppo QRM mi copre Adriano, non lo sento più. Avanti Gianni, le prime. Sì, QRM c'è... un attimo aumentato. Claudio, cosa vedi tu allora che usi il Ceflex? Adria, sei in mezzo al QRM, poco fa ti sentivo perché non avevo un filo di QRM, adesso si sta aprendo un pochino di propagazione e ti copre, non ho capito cosa hai detto. Vabbè, riferite voi, qua siamo a livello di il Ceflex di Claudio, altro che rigidezza di 113. Via. Ma senza andare lontano, la Camille c'ha il centrale rigido, è molto più rigido di questo, ha una rottura di scatole. Una rottura. Vabbè, comunque, vista l'antifona, comunque rimetto lo spessore e il filtro, per tanto quello ci vuole. Se attacchi scarpette, linearetti è meglio sempre averlo, per evitare, meglio prevenire che reprimere. Sì, ma io non ho capito cosa ha detto Adriano, ditemi cosa ne stava dicendo, stava dicendo qualcosa a me. No, io ho la Camille, Adriano, se mi senti. Io uso la Camille, ma a pochissimi metri, perché quando ho cambiato casa c'ho le antenne nel muro del giardino, quindi sono molto vicine a dove ho le radio, capito? Tutto a Camille, tutto, anche le ispezioni interne sono tutto a Camille. Ok, che cosa stava dicendo Rubroff Adriano? Stava dicendo a me qualcosa? Guarda, è essere sincero non l'ho capito, stavo parlando, ha tirato fuori un termine, boh, non lo, io ero anche un po' distratto, la verità, magari Marco può essere più preciso. Sì, stava parlando delle dimensioni dello spessore del Celflex, dice altro che 213, Celflex, non so quale versione. No, io non ho Celflex, a me va bene la Camille, perché tanto ho poche antenne, sono gli stessi cavi che avevo carbonati, li avevo messi nuovi neanche un anno, quindi li ho colti, li ho recuperati, li ho messi qua e basta, e lascio stare queste. Poi strumenti non ne ho perché uso la T250 con i K, quindi c'ho sotto controllo watt, rosmetro, c'ho tutto sotto controllo, insomma, come fa anche l'accomodatore d'antenna, quindi uso solo quello. L'FT920 c'ha tutto lo stesso, rosmetro, watt, metro incorporato, correttore, eccetera. Il Galaxy so che lo strumento non è un avvantaggio preciso, quindi quello che segnerà. Va bene, le VLU rimangono come sono. Avanti Tino. Sì, stavo appunto aspettando il passaggio perché volevo andare a farmi un tuffetto fuori, a rinfrescarmi. E niente, ne approfitto solo tardi e poi magari se coincide più tardi. Riprendi Claudio, aspetto i saluti e poi vado via. Gappa gappa, d'accordo Tino, dai. Ci sentiamo dopo, allora il cambio per Marco, io mi allontano nuovamente perché c'è gente a cena e sto seguendo alcune cose che c'ho al forno. Ok, quindi cambio per te Marco e già entro tra un attimino, mi controllo le cosette e poi rientro, vai. Ciao Tino. Ciao Giulio, ciao. Ciao, ciao Claudio, di nuovo se sono ritornato io, se ne stai andando tu di nuovo. Vabbè, hai da fare, pazienza. Ciao Adriano, ti sento bassissimo, quasi non capisco quello che dici, comunque alle volte capisco bene, alle volte meno. Avanti Claudio, ci sei ancora? Sì, sì, sono qua, io vi sto sempre ascoltando, non vi ho perso un attimo, Giulio, no, c'è gente a cena, c'è roba al forno, quindi devo seguire alcune cosette, se no non riesco a farlo, capito? Volevo fare una rostita ma c'è troppo caldo e quindi abbiamo preferito all'interno, se no sarei rimasto volentieri, ma sono qua comunque, vado e torno, non ti preoccupare, riprendi e fai girare. Ok, qua, d'accordo, attendi pure, che è più importante quello, sicuramente del baracchino. Vediamo un po' se riesco a sentire bene Adriano, avanti Adriano. Yes, ecco, ma è bene, dubito, sono per noi proprio livelli di potenza, proprio QRP, situazione di trasmissione, stile rumeno, una roba del genere. Se mi ascolti è un miracolo. Ok Adria, io ti ascolto diciamo in maniera molto molto parziale perché c'è un po' di QRM di propagazione che si sta aprendo, comunque in Santiago ci sarebbe, in Santiago 7 la radio è che basta Adria, non so se tu mi ascolti perché anch'io sono in condizioni molto precarie, comunque mi ha fatto piacere di ascoltarti, dai, riprendi e fai girare ai tu, vai. Yes, sì, no, la tua radio è ottima, direi 5, segnale anche, buono anche il segnale, ascolto bene, ripeti, ma che fine ha fatto quella specie di pederasta Natalino? Forse sta studiando Natalino, Natalizio sì. Tempo scaduto. Sta preparando il braciere, sta preparando per la seminata, poi ha detto che all'ingresso della sua strada ci mette un bel cancello grande e solo su commissione si può entrare, diversamente non è libero per tutti. Ma sicuramente sta dedicando a questo evento di questa sera, che suppongo che sia questa roba che sta organizzando lì a casa sua. Una specie di urgia con i barbecue. E invece c'è Marcolino, ci sei ancora? Sto per prendermi un gelato, finalmente. come si dice, una orgia sibaritica, così si dice per la papatoia, per la mangiozia. Sibaritica, non ho capito cosa derivi il sarà Sibari, boh, qualche, sai quei posti romani dove una volta dove si mangiava fino a vomitare, poi vomitavano e ricominciavano a mangiare in epoca romana. Sì, però cosa si parisca, ricorda l'avvocato di YouTube che faceva le roba sibaristiche cattivare. No, balistiche, sibaritiche, credo che derivi da Sibari, e mi pare sia un paese del, non mi ricordo, lo devo cercare su internet. Eia, va bene, io adesso ripristino il filtro, perché è cosa buona e giusta, perché questo cavo è sempre un po' duretto, e quindi riprendi, Giulio, un attimino. Tempo di mettere il cavo e poi vado a mangiarmi qualcosa di fresco. Vai Giulio. Ok, Marco, no, io lo sai, io ho la Camilla, lo stesso, no? Però ci ho messo un piccolo spezzone con un manicotto per allungarlo con un H155 e va benissimo. Perché sennò hai detto bene, non so chi l'ha detto poc'anzi, che la rigidità del cavo si spostava addirittura il baracchino, è vero, soprattutto la Camilla che ha il polo caldo, ce l'ha unico con rame da 3 mm circa più o meno di spessore, anziché essere multifilo, per cui va bene così. Ok, riprendi Adria. No, io il 213 per fortuna, ha detto peggio se avessi avuto la Camille. Sì, il 213 quello lì è multifilo, dunque, però la Camille è così, è proprio un fil di ferro, naturalmente in rame, no? Non certamente in ferro, ma è intorno ai 3 mm circa, 2,6, una cosa così, se ricordo bene, di diametro, 2 mm quadrati, insomma, 2 mm e mezzo quadrati. Va bene così, ok, vediamo se ti prende Adriano, vai Adria. Yes, sì, sono sibaristico e catafratto. Marco, fai la ponte, non ho capito purtroppo. Sì, mi sa che siamo in 10, a pochi chilometri. Oh signor, vabbè dai, a breve finisce di media. Ok, Adria, si sta aumentando ancora il QRM, forse si sta aprendo la propagazione, non lo so. Vabbè, ripeto, anch'io non è che sono in condizioni molto splendide, la verità, sto uscendo con una radiolina di proprio piccolina, con pochissima potenza, e l'antenna ce l'ho in basso anch'io, per cui non è così, non è più come una volta, insomma, ecco, diciamo così. Vediamo un po' se riprende Marco. Marco? Ma lo sai qual è il bello del radioattismo? Riuscire a ascoltarsi anche con mezzi di fortuna. Possiamo addirittura attaccare dei pezzi di ferro, delle anche le reti del letto, e si riesce bene o male a ascoltarsi. Ok, riprendi, scusate che ho rubato la bocca. Riprenda Grigio. Ok, riprendo di nuovo io. Non so se c'è rimasto Gianni, ma non credo, perché non l'ho più sentito, o perlomeno non è stato richiamato in causa. Sì, hai ragione Adria, con mezzo di fortuna è più soddisfacente il collegamento, è vero. Con mezzi potenti chiaramente è facile per tutti, per chiunque. Vediamo se c'è ancora Gianni Rubrofetta. Profetta, cioè sì, no, è andata a trovare Natalino sicuramente, così organizzano il braciere. Oh, iaia, vabbè dai. Marco, riprendi. Cappa, ecco, rimesso lo spezzone. Vabbè, come tutto nella norma, diciamo queste sono le condizioni abituali mie. Giulio, io stacco, vado a pigliarmi un gelato, proprio una cosa fresca, perché non so come stare. Star fermo è anche peggio. E quindi un saluto a Natalino, se c'è ancora Claudio, Pomponio, se quando entra e esce, Giulio, Adriano, Tino, se è ritornato, se è rientrato, chi altri c'era? Boh, non mi ricordo altri, dai, ritenetevi tutti salutati. Vai Adriano. Yes, sì, ho capito, per andare alla routine. anche me. Faccio il girare per... Ok, ti saluto anch'io allora, Marco, anch'io devo scendere che sono arrivati parenti qua, dai, per cui devo salutare anch'io, forzatamente, ma devo salutare. Ciao Adriano, fatevi sentire, magari in condizioni un pochino migliori verso di me, io non lo so, vedrò di sistemare qualcosina per farmi sentire meglio. Comunque mi ha fatto piacere di ascoltarti dopo anni. Suppongo che sei sempre lì, in quell'officina, in quella via, vabbè, non dico la via, suppongo che sei sempre allo stesso posto di lavoro, Adriano, confermi? Yes, ma sai che invece io non mi ricordo chi sei tu. Giulio, sono io, Adriano. Mi sta sfuggendo, ma Giulio, fammi capire. Ho capito che sai perfettamente chi sono io, ma io non ho capito quale Giulio sei. Giulio Dolla, no, ti ricordi il falegname che c'è da via Cervi fino a qualche anno fa? Sono io. Mali mortacci, ciao Giulio. Mi ricordavo qualcosa, modulazione. Carissimo. Adria, sono passati un po' di anni, sono passati un po' di anni senza sentirci, per cui prima tu eri un po' più assiduo, anch'io al momento non è che sono molto assiduo, però diciamo che di tanto in tanto già mi faccio sentire lo stesso, anche perché sono in pensione, per cui il tempo non mi manca in quel caso lì, capisci Adria? Yes, beh, senti dopo tantissimo, no, dopo dieci. Dai, conto di ascoltarti alle prossime. Ok, dai, faccio una fine di corrisse anch'io. Sinceramente vado a fare una pisciatina, poi ho toccato il fondo, che la radio tanto. Poi direi tu. Ciao Giulio, questo è dopo un ventennio. Ok, ciao Alia. Ripeto, mi ha fatto piacere di ascoltarti dopo un bel po' di tempo, per non dire anni. Va bene, sempre alta la vista, che è meglio. Ciao Marco, ciao Claudio, se sei ancora ascolto, Tino, Gianni lo Profeta, Natalino, salutoni a tutti, chiudo anch'io, dai, che devo scendere che è già andato, sono arrivati i parenti qua. Ci sentiamo, ciao a tutti, chiudo. Un saluto veloce a tutti, ciao, buona serata a tutti.